Adesso aprirei la discussione. Aveva chiesto di parlare il professore Pellegrino sulla relazione Miegge. Olivetti. Allora, ricapitolando, Olivetti. Ho trovato molto stimolante la relazione del professor Miegge. Olivetti. Per quanto riguarda il Mysterium Iniquitatis, visto nel versante protestante, io vorrei richiamare un altro aspetto storico. Nella storia moderna c'è tutto un versante cattolico che fa un'autocritica proprio alla cristianità, intesa come la proiezione nella storia del cristianesimo, e anche dire cristianità, dire anche chiesa. E questo versante cattolico è collegato però con un tema, e qui io farò una domanda, che è quello politico, perché mi sembra, a un certo punto, mi sembra che il professor Miegge dà meno importanza all'aspetto politico. Ecco, io ricordo quelli che sono alcuni dei pilastri di questa critica. Di questa critica all'interno del cattolicesimo, della Chiesa Cattolica. Lo Iedin, nei tre volumi nella storia del Concilio di Trento, ricorda appunto questa autocritica che è cominciata nell'età moderna proprio a Trento, qui nel Concilio di Trento. Ricorda in molte pagine il Concilium de Emendanda Ecclesia del 1537, che è un'autocritica della Chiesa Cattolica che poi è stata introdotta anche nel Concilio di Trento. Poi ricordo un grande teologo che è pure storico della teologia, come il Thomassen, il quale scrive diversi volumi, tra cui un volume sulla Chiesa e sui rapporti tra Chiesa e economia, Chiesa e benefici ecclesiastici, criticando le posizioni della Chiesa in rapporto appunto a quelle origini medievali dei benefici. Poi nel Settecento un grandissimo storico, Muratori usa già quello che poi sarà la parola fondamentale di Rosmini nelle Cinque Piaghe, perché parla di piaghe della Chiesa, e Muratori raccoglie moltissimi documenti come espressione di una deviazione della Chiesa dal punto di vista del potere, dal punto di vista della volontà di conquistare non un servizio più ampio alla comunità cristiana, ma un'autorità maggiore sul piano politico e sul piano economico. Cioè, no, è noto che Muratori è stato indicato dal Duca di Modena. Lui ha cominciato la sua attività come ricercatore alla Biblioteca Ambrosiana, poi è andato a Modena, è stato indicato come vescovo, ma non è stato mai fatto vescovo perché ha criticato talmente la Santa Sede che non era ritenuto degno dell'episcopato. Ricordo Rosmini nelle Cinque Piaghe, che è indubbiamente un'autocritica della Chiesa, ed è un'autocritica che, come nelle antecedenti posizioni, come anche nell'ultima, qui è solo una menzione, Maritain, nel volume sulla Chiesa, si tratta di una critica a una posizione interna alla cristianità, come è stato rilevato. Poi di tipo storico, soprattutto Muratori e Thomassen hanno una grande documentazione storica. E poi, questa è la domanda che io faccio al professor Miegge. Siccome qui a un certo punto dice che si sposta dal campo teologico-politico a quello della morale, dell'opinione pubblica, a quello dell'etica. Ora, tutti questi autori che ho menzionato, che sono autocritici per quanto riguarda la Chiesa Cattolica, sono convinti. Per fare un esempio chiarissimo, in Rosmini si dice che delle cinque piaghe della Chiesa c'è una super piaga che le innesta tutte, che è il barbaro feudalesimo che da secoli è entrato nella Chiesa Cattolica. C'è un'oligarchia, si è formata un'oligarchia che non c'entra niente col Vangelo. Ecco, allora io chiedo se il professor Miese ritiene che l'aspetto politico, che questo appunto del capovolgimento vero del servire che diventa potere, per lui è di secondaria importanza o è soltanto qui un cenno alla posizione di Kant. Ecco, ringrazio comunque molto il professor Miese, mi è interessato molto. Grazie. Vogliamo rispondere alla fine? Alla fine, perciò. Sì. Allora, Olivetti. Forse fra le tante domande possibili ne scelgo due, una al professor Malter e una al professor Miege. Soll ich etwa meine Frage auf Deutsch stellen? Ja. Umso schlimmer für Sie. Ich weiß nicht, ob ich mich verständlicher mache. Aber jedenfalls, also Sie haben ganz zu Recht meiner Ansicht nach hervorgehoben, ganz am Anfang Ihres Referates, dass die Rezeption der Kantschen Religionsschrift schon anfing, noch bevor die Religionsschrift selbst veröffentlicht wurde. Nun, also ich bin dessen ganz überzeugt und das ist klar einerseits und es liegt mir sehr am Herzen, dass man sowas auch in Rücksicht auf den fichtischen Versuch hervorhebt und ich hatte etwas auch gestern etwas der Art gesagt und behauptet. Nun wäre meine Frage folgende. Wie weit könnte man diese These auch an den fichtischen Versuch selbst anwenden? Und da Sie vom Motiv des radikal Bösen beim nachjährigen Fichte gesprochen haben, dann wäre die Frage, wie weit könnte man das in Rücksicht auf das Thema, ja, des, nicht des Radikalbösen, jedenfalls des Bösen innerhalb des fichtischen Versuchs sprechen. Weil es ist wirklich, wirklich merkwürdig, wie die Deduktion eines Begriffs der Offenbarung bei Fichte die Möglichkeit einer solchen empirischen Tatsache voraussetzt. Obwohl nicht ganz verallgemeinert, aber es ist sowieso notwendig, dass das Böse wirklich sehr weit und breit verbreitet ist. Sonst wäre es nicht notwendig, dass Gott sich offenbart. Nicht? Also da Sie natürlich könnten das auch philologisch und archivialisch sozusagen bearbeiten. Vielen Dank. E la domanda al professor Miege. Ma dunque, non è nemmeno una domanda, oltretutto è una risposta ad una provocazione in una certa parte, ma è una domanda perché è anche il tentativo di capire il disegno generale che mi ha molto, non è un minuetto da congresso, mi ha molto affascinato. Ecco, allora, tanto per dimostrare che questo non è un complimento formale, vorrei dire anche, premettere una osservazione critica sulla quale invece il disaccordo da parte mia sarebbe totale. A un certo punto Miege ha affermato che il capovolgimento si determina, il capovolgimento in cui consiste poi ultimamente il male morale, si determina a livello della disposizione alla personalità. Io su questo non sarei d'accordo, ma la cosa in un certo senso non è rilevante rispetto al problema più ampio che vorrei porre. Su questo non sarei d'accordo perché è bensì vero che si tratta di un capovolgimento e di un capovolgimento nell'ordine delle motivazioni che vengono assunte nella massima, dunque nel principio soggettivo dell'azione, questo senz'altro, ma da questo a dire, come io mi annotavo, che si determinano le disposizioni della personalità, ma forse questo è troppo, perché è troppo nel senso che non rende, mi pare, rischia di non rendere giustizia alla assoluta perentorietà con cui Kant, proprio all'inizio della Religionsschrift, dopo aver detto che nella disposizione al bene distinti vari livelli in cui questa disposizione si articola, e aver notato che si possono innestare dei vizi, einpflanzen dei vizi su ciascuno di questi livelli, cioè quella l'animalità, quella l'umanità, per quanto riguarda invece la disposizione della personalità, esclude ogni possibilità di innesto. E questo secondo me è tecnicamente, diciamo, abbastanza essenziale, nel senso che se deve poter funzionare il dispositivo della, come chiamarla, autoredenzione dell'uomo, non deve essere possibile che un capovolgimento si determini nella disposizione. Proprio per questo il capovolgimento che si è determinato in modo imperscrutabile nell'assunzione, nella massima fondamentale, per così dire, che fa sì che noi, quando agiamo, non rispettiamo la legge morale, ecco, questa forse non è una cosa importante, d'altronde credo si potrebbe essere facilmente d'accordo. Invece sullo spirito complessivo che governava la relazione, questa è la mia domanda e richiesta di chiarimento, ecco, cercare di capire. Mi sembra molto importante quello che mi è già affermava a proposito della strutturazione dell'opera sul motivo di un Kampf. Ecco, questo è veramente strutturale, senz'altro. Però chiedo a Miegge sino a che punto questo carattere strutturante del Kampf debba essere compreso in termini di, diciamo, filosofia della storia. Perché la mia impressione, io ho avuto l'impressione, però ecco, è un'impressione, non lo so, te lo chiedo, ho avuto l'impressione che nella fine e complessa relazione questo Kampf fosse visto, direi preferibilmente, quantomeno preferibilmente, in chiave di un Kampf che si svolge lungo il corso della storia, sino appunto a un trionfo finale, il che certamente è il caso nelle intitolazioni che Kant dà alle parti della sua opera. Mi sembra però molto meno il caso se poi dai titoli, che riproducono dei cliché per così dire, si scende all'interno dell'opera, dove questo Kampf certamente è presente, ma è una lotta continua, come proprio in quella rappresentazione storica a cui, in quella parte intitolata rappresentazione storica, tu ti richiamavi, ecco, proprio lì dice che questa storia sarà una storia perenne. La stessa, vorrei dire che la stessa scissione della terza parte in una rappresentazione filosofica e una rappresentazione storica è essa stessa, mi sembra, segno di questa non mediabilità della storia. Se io non mi inganno, questo lo dico perché mi sembra che nella tua relazione ci fosse una certa accentuazione invece nel senso di una filosofia della storia in qualche modo destinata a culminare. Però mi sembra che questo renda molto giustizia a qualche cosa che tu dicevi, se tu lo condividi, che tu dicevi che mi ha molto affascinato quando identificavi la comunità etica con l'opinione pubblica illuminata. Ecco, e allora appunto... Certo, ci sono aspetti di storia ormai definitivamente, anche lì di storia ormai definitivamente instaurata e di storia sempre da riconquistare, me ne rendo conto. Grazie. Grazie, Olivetti. Professore Cesare. Sulla relazione Malter. Herr Malter, ich habe Ihren Vortrag mit großem Interesse und mit vieler Belehrung gehört. Ich möchte aber ein leises Zweifel über die kantischen Elemente, die Sie in der Freiheitsschrift von Schelling gezeigt haben, hegen. Es ist wahr, dass Schelling sich für Kant und gegen Fichte erklärt. Von dem radikalen Bösen zu sprechen, war 1809 fast unvermeidlich. Aber wie kann man meinen, das kann und Jakob Böhne sich vertragen können.